beh, Lillo, butta giù la pasta, che è pronta. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno. Hola. Attenzione sul canale 10. Che è avanti? Vabbè già. Poi un clic. Andiamo, andiamo, che esce. E allora? Il femmino Gontas. Il Teddy Gontas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urla già, mi. Stiamo lavorando. Sempre lì, sì, sì. E dove devi essere? Ma ti prende il fisso. Mi va a cercare assicurare. Ma fa bene la vita. Stai bene, allora tranquillo. Vabbè, se ti prende il fisso almeno c'è un lavoro come si deve. È fisso, no? Al momento mi farà un contratto di 2-3 mesi. Poi mi dice, se ti piace, che vuoi ingranare bene, che vuoi fare, capito? Cercando un altro autista anche, però uno serio. Non prende gente così tanto per, capito già? E niente, adesso... Solo cercheranno, io non dico nulla. Non chiedo niente a nessuno, non voglio fare brutte figure. Perché? Se no è un casino. Se no è un casino, se detto per noi. Fai un ricalco. Stavolta me ne esco un po', tanto ormai non lavoro, è festa. E vado lì a Ottava, che fanno una cosa di Aulin. Così si chiama Aulin. Aulin. Io dico Aulin, non lo posso dire. Sì, certo lo puoi dire, ma sbagli. Cazzo stavo dicendo, dillo Antonio che sta cercando lavoro, poverà, se lo sa come fare. Gli dici di non dire nulla, che te l'hai detto tu e via. Gli dici che sta cercando, di andare lì a cercare, a vedere se lo prende. C'ha la patente adesso. Ma già quel lavoro lì, io l'ho già fatto, capito? Se non l'hai mai fatto, è un casino. Vabbè, va. Tutti imparano, va, cosa ci vuole? Ti dividi il pane, vabbè, devi conoscere le ceste, non sbagliare la cesta, se no fa un casino. Vabbè, devi sapere imbustare, etichettare, non è così, no, già. Si sta male bene il pane nelle buste, in una maniera, no, così tanto va. Non so, può anche andare a chiedere, io non lo dico nulla, no, non mi dici voglio mettere più la faccia, già, no, assolutamente, poi magari, no. Ma chiede, si informa. Appunto, ma se non gli dice niente a nessuno, lui come fa a andare? Devo andare io stasera, dai, che lo stanno cercando, di non dire nulla, di andare e chiedere se stanno cercando qualcuno, che lui c'ha la patente. Certo non è diverso da consegnare le bombole, ma comunque già impara, non è che ci vuole la laurea. No? Io quei lavori li ho fatti tutti. Io facevo lavoro, capito? Impacchettavo il formaggio, il pane, prima arrivavo a Suso il pane, lo impacchettavi, lo mettevi per il sabato per averlo a portata di mano, pane grattugiato, tutto. Sì, certo. Beh, tu l'hai già fatto, magari riesci a farlo. È un lavoro, devi essere molto, molto sveglio, molto, se no è un casino. Poi è stata doppia. Io faccio, allora, prima chi lo faccio? Caniga, un negozietto, e poi da lì per la Sant'Orsola, poi diventa la base. Carico per Sassari, qualche bar, qualche negozietto, e poi faccio il giro di Osilo, che a Osilo ne ho 3. Una volta finito Osilo, rientro, c'ho la Kuwait lì, via Carlo Felice, alla fine, vicino a casa di Pomponio, c'è la Kuwait lì. Ho segnato una busta di pane, boh, è finito. E ieri a Osilo è andato, sì. Dice che c'era un incidente un bel grosso. Di mattina. Di mattina presto. Un po' di strada. Si è battuto prontamente con un'altra macchina. Già, non lo so, questo è beh, ma grave. Non lo so, me l'hanno detto a me. Me l'ha detto un amico che stava lavorando lì. E quindi stavo facendo quella strada, ha detto che se c'era un casino, c'era polizia, pompieri, c'erano i vigili urbani. Ambulanze. Non lo so, prima cosa che sento già. Ma lei mi sta ascoltando? Ma l'altro apparecchio ho veduto là. L'altro quale? Quello che stai usando l'altro giorno, non ci siamo capiti. Questo qua è? Questo è. E come mai stai scendo più forte? Cosa ti ha messo? Microfono amplificato? Microfono normale, microfono amplificato, non è MB più 4 mio gli ho messo. Va bene, sì, va bene. Via. Mamma non è un impianto digitale, nuovo come me. Un impianto digitale già, è più forte, a me piace più l'analogico. Anche a me. Anche io sono così, la stessa cosa. Io l'avevo digitale, l'ho dato, perché sì, lo sapevo usare, giravo, facevo, però non mi piace brutto. Per me le cose con l'ago mi piacciono, anche gli strumenti dello stereo. Mi piacevano più quelli di una volta con l'ago, invece che avere quei caselli di lucette che si accendono. Prima c'erano gli aghi e vedevi distorsometro come saliva. Mentre metto lo scotch mi sono cazzato a tambaine e diviso un cazzo di papagazzo. Cavagava. Sì, vabbè, comunque. Piano piano, dai, sono andato il 26 di ottobre. No, aspetta. Se non me lo ricordo, 27 no? Forse 25. 25 sono entrato. 25 di ottobre? Sì. C'è da poco. E vabbè. Io sono andato perché mi avevano buscato un posto da Cesaraccio. Ma non adesso, ti parlo di anni fa. E cazzo, mi volevano dare 1.000 euro. 1.000 euro, poi le moto, le macchine, se hai incidenti, non perché te devi pagare tu, se le rompi te devi pagare tu, cioè ho detto no, non mi interessa, mi sono andato. Ah, ho capito. Cosa fai stasera? Già niente? No, sono andato lui alla gamba, che cosa faccio? Voglio, lascia perdere, come se mi desse di morsi alla gamba. Ho fatto le lastre ieri e mi hanno trovato praticamente calcificazione delle vertebre della spina dorsale. E quelle che provocano i dolori sono quelle e poi praticamente il coso, il calcio è uscito dalle ossa, proprio a cartilagine. Sesso, ci vuole più sesso. No, Marco, vabbè. Sai cos'è? Anche la malattia, cazzo, questo cazzo di gas vedi, mamma, sembra addormentata. Sempre addormentata, dorme. La mattina sta sveglia, durante la notte sta sveglia. Quando c'è la TV, tutto il giorno addormentata. Ormai l'ha presa così, casino. Guarda che quando dorme perché c'è la glicemia alta. Questa malattia fa addormentare quando c'è la glicemia alta. Ciao Marco Condo, mi hai sentito? Buonasera a tutti, vabbè una battuta, tu già sei già nel caldo però magari devi inarcare la schiena di più, devi abituarla a tenerla bella, hai capito, in esercizio. Vabbè già, ma come va l'amore? Mi sei messo a donne Gianni? Ma adesso sono fermo, dai, sono fermo da paio di settimane. La persona non fa? Cosa? Con quella persona non fa? No, ho lasciato perdere, l'ho mollato. Oh, ci sentiamo sempre, mi telefono anche, mi segue da tutte le parti dove vado a cantare, eccetera, ma non fa, dai. È troppo fermarosa. No. Devi misurare le parole quando parli, chi se lo pretende. Già, io la conosco molto prima di te, ma molto prima, ma tanti anni, tanti. Cioè mi conosce da ragazzino, poi se vai ci siamo un po' presi di vista, ma è stata sempre così, Oh. Sì. È stata sempre così, già. Pipperina, eh. Cos'è? Pipperina. Che scatta la prima, vedi, che si... senza mezzi termini. Se ti devi dire una cosa, anche se c'è gente, non si regola, è strano. Ma meglio evitare, meglio già. Così ho trovato perché il figlio è fuori di gabbo. A me dei figli vanno più appetito. A me se mi deve interessare ti interessa di... Ma appunto quello che ti dico che il figlio è fuori di gabbo nel senso che se tu la tratti male, capito? Cazzo di superiore ti zecca, ma una volta subizzindo è la metà bassa, una forza brutta, cazzo. Proprio una forza da, non so come dirtela. Un giorno se capita ti racconto cosa cazzo ha fatto vicino a casa. E lui l'ha fatto, mica ce ne vuole, cazzo c'è riuscito. E io l'ho sentito solo quando parlavo con lui al telefono, basta. E una volta che era mi prende, ha detto, come si è permesso a trattarti così? E l'ho cercato perché lasci il mio babbocci. Dove era vicino a me? Ah. E infatti sto cercando di evita. Tu ascolta a me, evita. Perché conosco il personaggio. Personaggio illustre. Ma è stato in coma un periodo, lo sai. Lo so, se vuoi ti spiego il perché. Con l'impastatrice dice che sarà. Allora ti spiego, praticamente la pompa, questa è la pompa che usano per gettare, la pompa lunga lunga. Sì. Praticamente cosa ha fatto? Lui ce l'aveva e stava svolgendo la calcestruzzo. Questa pompa si è bloccata, gli ha dato un colpo e ci ha buttato giù dal tetto. E dice che se stava sorprenderà. Senti questo animale. Colino Condo, vuoi parlare con Muro? Drogato. Oh, te l'hai sentito l'americano quanto arrivava forte? Yeah. Fuori di Gabo, guarda, sul 6 e sull'11 arrivano 9.15, guarda che qua a questo smitter, ecco, con questa antenna è un bene 9.15. Per gli Stati Uniti, folle. Ma anche infatti pensavo che era qualcuno che volesse entrare, invece no. Propagazione. Drogato. Ma vuoi finire? Vuoi finire? Faccio scudere il telefono, me lo bene. L'altro giorno ho chiamato a casa, per carità. Ma vuoi parlare con Muro, eh? Vuoi parlare con Muro? Io devo malattino, adesso devo TMRlo, fammelo parlare lì. Ti vuoi mangiare un glutino di mamma o pomponi, oh? 24364, droga. Adesso devo TMRlo. Se lo vede il PMRlo, a me lo parla con Muro davvero, mi parla. Con quelli che sono vicino a lui, così ce lo mandano a fanculo immediatamente. Hai già. Gianni sta ciuppando, sicuramente sta chattando, lui fa cose parallele. Baracchino e acciuppamento tramite social. Comunque c'è questo video sui social, la cappellina, fottidini. Vogliono soldi, vogliono. E tu dai periodo del Covid, hai capito? No, non ci va sulla roba a pagamento, Gianni. Gente locale di Sassari. Ho detto che Gianni doppio non va sulla roba a pagamento, che Pomponio sta parlando di roba a pagamento. No, ma non siamo dello stesso centro sociale, quindi non può permettersi di parlare così. Io non ho detto niente, hai sbagliato tutto Marco, hai capito? Non ho detto niente di quello lì, assolutamente. Molto purtroppo queste ragazze qua, quando ti mandano dei messaggi, hai capito? Tu dirai l'amicizia evidentemente vogliono soldi, solo quello volevo dire. Sì, già, non era riferito a te, era una cosa generalizzata. Che ci sono belle fregature di tizie, praticamente vogliono sempre solo soldi. E dove vieni allora? Ma come hai detto tu, sembrava che io andassi con queste qua, ma io non ne ho bisogno di andare. Vabbè, comunque capito male, scusa Alessio. Niente, dai. Sì, è così, è vero, poi ti portano su Instagram, eccetera, eccetera, so già tutta la storia come... Guarda, io sono andato a donne, in pratica per un baracchino di quelli, come ti posso dire, quelli stavano bene, adesso non ho più visto la verità, ma comunque prima c'era SDR, 129 euro, stavo facendo l'amore con questo e stavo aspettando. aspettando che veniva a casa, invece a questo arrivare lì mi è arrivato un pacco e c'era un martelletto e 5 cacciafitti. Si è fatto bruttina. Bobo, Bobo, bene, mi stai ascoltando? E a voglia, ho preso una bella trombata che non avevo idea. Sì, ti ascolto bene. Oh Antone, ma non è che c'è quel televisore, poi l'avevi sistemato? No, ce l'ho ancora, il televisore, vabbè, quello LG sì, ce l'ho ancora. Non l'hai sistemato? No, ancora no. Quasi che ci ha procurato un pannello LCD a 32. Perché lo devo adattare a un televisore, cazzo, mi dispiace buttarlo. Ha preso un colpo e c'ha il pannello danneggiato. Ma si riesce a procurare, Antone, perché me ne ha dato un leoncino ma non va bene. Ah, l'LG ti ha dato, quello nero ti ha dato. Cosa vuoi dire, io? Funzionava quello, funzionava veramente bene. Poi, vabbè, l'hanno incasinato tutti e due, perché io sono riuscito a farlo funzionare bene. Poi, non lo so, tra lui e il fratello l'hanno incasinato, perché da me, io volevo i canali bene. L'ho piazzato qua, frontale, guarda, come funziona, funziona benissimo. Allora preso, ho detto, guarda, portatelo via, gli ho detto, cosa me ne faccio, gli ho detto, di questa regia, pesa, perché pesa, è la verità. Sì, vabbè, ce l'ho portato via, vabbè. Ma non pensavo che poi lui lo incasinasse, eccetera, perché c'è la lingua tedesca, la lingua francese, la lingua, hai capito? Poi usciva questa specie di cosa, cioè la lingua in pratica, cioè, non la lingua, come si dice, il messaggio frontale, come si dice, ma quello è una fesseria, bastava cancellarlo, il televisore funzionava bene. Ma cosa funzionava bene? L'accendevi già, questo volume si sollevava da solo, si cambiava canale da solo, che cazzo funzionava bene? Io l'ho provato, non so, la verità non mi è mai capitata a me, a meno che non l'abbia incasinato lui, questo non so su dire. Io quando l'ho provato, se avesse fatto una cosa del genere, gli avrei detto, guarda Giuseppe, buttacelo e basta. Invece no, ho detto, guarda, ho detto che funziona bene, cioè solamente questa storia che ti appare in pratica, perché lui l'ha toccato, il telecomando, eccetera, eccetera, e quando c'era il video, quando la persona parlava, in pratica usciva in lingua italiana o tedesca, quello che è, il discorso è quello, tutto lì. Comunque in passiva dici che si cambiava il canale da solo, il volume, cosa, se passava la luminosità da solo, ma cosa, ma poi c'era il codice, c'era, però la stanza ti chiedeva un codice. Vabbè, comunque, se ti cade non lo sapere, però a LED mi serve, quello era, quella pesava perché era quella cosa, la lampada, con le lampade dentro, no, a LED, capito? Se ti capita, fammi sapere, te la do una cosina, non c'è problema. Ho capito, comunque guarda, quando me l'ha portato a me funzionava bene quel televisore, perché funzionava veramente bene, e purtroppo l'ha incasinato lui, hai capito? Senza telecomando, gli ho dato un telecomando, io gli ho dato dell'LG, poi ha preso e si è giocato e cosa del genere, ma ha incasinato tutto, io già me ne sono accorto. E tu, Giuseppe, gli ho detto, cazzo, e tu non puoi tu incasinare lui, se non conosci il televisore, non è che ti metti a giostrare, gli ho detto. E stavo provando a togliere le cose, poi gli ha messo il codice per sbloccare, il codice per bloccare, eccetera, eccetera, la lingua, hai capito? Non è mica lingua italiana, è la lingua totalmente diversa, il discorso è quello lì. Io già me lo ricordo perché me l'ha portato il giorno che l'ha trovato nel cassonetto della Mondetta, perché non lo sappia. Sicuro. Vabbè, avanti Gianni. Aspetta che sto rispondendo a un messaggio. Marco, riprendi. Eia, perlomeno Giuseppe poteva scaricarsi il manuale utente da internet. Guarda, da internet trovi tutto ormai. Tutto, tutti i manuali. Certo, se in inglese amen, non lo so. Non saprei dire. Poi vabbè, a certe volte sono in italiano i manuali, manco l'italiano li capiscono, allora pazienza. Non è inglese, è stato meno in tedesco, la verità. Era, mi ha messo il giapponese, roba del genere, quindi a un certo punto è un casino. Tu figurati che mi ha portato il palacchino, che avevo sistemato io, mi ha fatto fumo, non lo so io. Il coso, quello che c'ha lui, il Zodiac. Adesso dimentico cosa devo fare io con questo Zodiac qui. Non so cosa gli è successo, cosa ha combinato, se gli ha fatto un corto, non lo so neanche io, la verità. Non so come proseguire, perché non ho testa in questo momento. E quindi, lo stavo usando, dice, tutto contato, dice, mi ha fatto fumo bianco. In pratica scadano il finale trasmissione e il finale audio. C'è un corto, c'è. Deve essere qualche corto dove c'è il PLL, cosa cavolo adesso io. Ma non dico il menu che ti va a video. Di scaricarsi prima le istruzioni da internet, poi vedere se si può fare un reset per farlo partire in inglese di solito, di default, il menu. Però almeno un manuale base ci vuole. Non so se si trovino tutte le marche, presumo di sì, c'è di tutto su internet, di tutto e di più. Poi ti puoi aiutare anche col traduttore, se fai copia e incolla per tradurre una frase, certo se lui non però non lo sa fare. Buonanotte, vai Luca. Ma infatti, si aumento da un po' di watt, lo lascio al massimo. A proposito Luca, hai fatto qualcosa con quei manuali? Marco, così cazzo mi biglia male a me, mi prende un po' male. Ma ok, mi dai il link e me lo guardo al computer. Mi mandi il link e poi me lo copio e me lo mando tramite Facebook. Se no è un casino. È un casino. Cazzo vuoi telefonia, oi? Siamo per Gurunda. Comunque le memorie c'erano già, e allora se tu hai trovato canale memorie, in memoria, il tasto private, le avevo memorizzate già io, a dirla breve, dai. Bene, bene. Sì, però non ho capito la funzione di questa cosa qua. Faccio un esempio, adesso è in memoria, PVT c'è scritto nello schermo, poi c'è scritto sotto, old scan. Serve a bloccare e a far ripartire la scansione. Se tu premi hold mentre sta girando si blocca, se ripremi riparte. Hold serve a bloccare e far ripartire o la scansione o la funzione search, che sarebbe la ricerca su VFO, in poche parole, dai. Ok. Invece per cercare quelle memorizzate, qual è il tasto? Private, tu premi private e va direttamente lì dove ci sono le memorie. Io ti consiglio di disabilitare Air, Marine, tutti quegli altri bottoni, PMR anche se non ti interessa, che scompare da schermo, capito, la scritta. Tanto sono tutte già bidure alla fine. Quello che interessa è sulla banda, su quella sezione private, come vi chiama, in inglese non lo so dire. Guarda. Sono in inglese. Adesso non me le trovo più le frecce. Vabbè, non capisco, io quando non ci arrivo mi si chiamano solo le palle. Ascoltate, ma invece voi di droni, tu di Luca di droni ne sai niente. Per esempio quelli sotto i tot grammi, quelli base, non dico giocattolo ma quasi, per imparare a farli volare, quelli al di sotto di un certo peso sono liberi di libero uso totalmente o devi comunque fare qualche menata, qualche certificazione? Guarda, di droni niente, se vuoi di trudi, ma di droni proprio sono negato. E tu pomponio Antone. Nulla, Gianni, doppio rumo, puoi riprendere? Sono diventato, due minuti, facendo la pupù. Fatto sta. Luca, tu mi pare eri appassionato di elicotteri e modellismo, mi pare, se non ricordo male. sai cos'è, tra coso, contrassegna, assicurazione, no fly zone, si sono inventati di tutto e di più. Manco avessi un drone militare americano di quelli da mandare in guerra. E vabbè, niente, mi documenterò, dai. Avevo sentito solo di questa categoria, non so se sia C0, C1, cioè al di sotto dei pot grammi potrebbero essere di libero uso, però naturalmente non è che lo fai volare sopra la gente in città, treni privati, roba del genere. Mi dovrò, come dire, acculturare. Lillo, butta la pasta che è pronta. Ebbè Gianni, ciao Marco lì, buona serata a tutti e due, vi ascolto, dai, mi assento un attimo che mi sto scolando la pasta, che sto facendo una spaghettata all'astice. Ebbè, rigida! Ui, biondo! Ai! E da qui ci sono i vittimi, cazzo! Di nuovo che va di che c'è la pasta alla carbonara, boh! Alla carbonara? Che fai carbonara? La carbonara, all'astice! Cazzo, non ci vitti, ma la redda! Io l'ho mangiata da Cristian, di là, te ci ha fatto la pasta con i... come si chiama? Con i... i granchi blu! È buona, che sta a fare? La puttanesca! La puttanesca! Sì. Uno, il cognato mi sembra che lo fa, non so chi lo fa, parentela so, però la fa buona. Allora senti a Ginko, bum bum. Sì, che lo sento, lo sento. E beh, usci a porco. Guarda che sto aspettando quel coglione che abita vabbè, a Monserrato, che mi deve dare quella roba. Se non ti avrei pigliata subito, hai capito? Lasciamolo da parte e non muoviti da lì, perché mi serve quella roba, lo sai, per fare le riparazioni. E andare, Antone, andare. Comunque Marco, la passione ce l'avevo anche io degli elicotteri, andavamo con Luca a farli provare a Monserrato, te lo ricordi? Sì, no, a me proprio l'elicottero piace, io sono proprio più fissato, dove è cosa, sono fissato, ma anche quelli veri, è capitato una terra alla vita dove vado e me li guardo, aspetto lì che fatti, ti faccio il video, mezzo un bel, proprio una fissazione allucinante, ok. Io su degli soccorso sono salito una volta anche, eravamo d'urgenza per un incidente stradale, abbiamo caricato questo della moto, della strada di Porto Torres lì, e l'abbiamo portato in elicottero a Sassi. Sono salito io e un mio collega, insomma. Allora lo facevano i vigili del fuoco, non questi che ci sono adesso. Sì, ho capito, se infatti prima c'erano i vigili del fuoco, facevano queste cose qua. E quante volte atterrato lì vicino a dove abitava Claudio Carbonazzi lì nel campo? Come di volte. Infatti io mi sono fermato. Per vedere se era possibile vederlo dentro. Ma mi sa non me l'hanno fatto vedere. Se non mi ricordo male. Forse doveva decollare, ma non mi ricordo adesso. Io sono salito anche su un caccia, dove era l'esposizione, e facevano salire la gente, a Udia era. Praticamente abbiamo fatto delle simulazioni di intervento, c'erano sia i vigili del fuoco, sia le ambulanze, c'erano diversi gruppi di soccorso alpino, e ognuno faceva la sua, capito, la sua parte. Coccomane sì. Capito. Ah vabbè, cazzo, più fissaggio, più fissato. Tipo stamattina c'era l'elicottero dei carabinieri basso, lì in zona, sai, ma stavo parlando io, via Città Vecchia, era basso. Forse per il fatto di... c'era, non so se l'hai saputo già, la macchina di Borsellino c'era. Sì, beh, l'ho sentito dire al televisore. L'angusta dei carabinieri era. Luca, come è? A Claudio, che cazzo che facciamo male, come va? Che cazzo tu vuoi frequenza? Ciao. Ma non mi senti perché? Sì. Allora, cazzonetto, sto uscendo male. Vabbè, Claudio, abituato a sentirti la bomba. Ti ascolto, come se fosse fuori frequenza. Ehi, la radio non è regolata, già va bene. Ciao ragazzi, ciao, divertitesi. K. Ciao Cla. Ah, prima hai dato del controllo, ma vai di mamma sua, Claudio. Ma la bitella te l'hai comprata, Prata Paletta, Cla. Ehi, ehi, ehi. Comprata, comprata. E te saggi cosa ti ha detto? Prima di togliere il controllo, ma cos'è Emanuele? Torre di mamma sua. Torre di mamma sua. Torre di mamma sua. Oh, ho capito. Ehi, paghi su, devo andare così. Fate voi la torre, io l'ho già dato. Va bene, dai, che questa radio non va bene né M, sto usando quello grande del 7004 laico. Ciao Luca, ciao anche a Gianni, ciao, ciao. Ehi, dai. E la radio è una radio normale perché noi l'avevamo abituato a sentirci col microfono amplificato, quindi è normale che la radio, sì, la voce è la tua, però la radio è normale. Il microfono normale è questo, vabbè. Avanti, Pompù, anzi c'era cosa, Marco Condor, ma... Oh, aspetta un attimo Marco, Cla, poni la gazzarella sotto. Ah, è poco proprio ficcato, quello di tavola. Ma segnale ne ho almeno, sto uscendo col dipolo. Sta messo in off, dopo di segnale, la radio è... 4, dai, buona, è buona la radio, però sembri un po'... forse male la timbrica della radio. Questo non è che voto, questo è l'ICOM, è solo così, in AM non da ne vedo. Se passi in FM, lo vedi quanti bomba. Va bene, dai, lascio per salutarvi, sono sempre vivo comunque. Io vi ascolto, ciao ragazzi, riprendi Gianni. Ma perché anche Pomponio c'è quello ubriacone? Quello ubriacone, sì, usa porco. Ma a casa? Sì, sì, sì, già va bene, a voi. Ubriacone. Ho solo maturato a Gianni, non mi sembrava la verità. Ciao, però beh, hai sentito? Ciao, Antonè, un abbraccio a tutti, già ci sono sempre, io non sono morto. Però mi sto dedicando a fare altro, a fare l'attività che mi compete fare, dai. Ciao a tutti, un abbraccio, riprendi Gianni. Anch'io faccio Torremonto, si chiama, la verità, E pagano bene. Vabbè, ma tu sei culattone, io no. Un cazzo culattone, io faccio Torremonto, non montatore. Quindi il discorso è diverso. Paga il comune, Torremonto, si chiama. Oh, Marco, Marco, Gianni. Ehi. Questo qua è il Typhoon che non usciva di radio, forse deve scaldare prima di metterlo a modulare. Ma adesso l'hai messo a posto? No, è rimasto acceso un bel po' di tempo. E allora c'ha il condensato di scarico, sicuramente ce l'hai più. Ma dove è secca, che cazzo so? Accidenti, cazzo. Pompo, me lo farei sapere chi sono, così glieli cambio. Secondo te quali sono, cazzo? mille microfalate, 16 volts. E lui non è tecnico, non per saperlo. Tu già li hai riparati, gli apparati, quindi già lo sai. Allora, il discorso non è il fatto di essere tecnico o meno. È il fatto che purtroppo i baracchini ce li hanno piccolini con i satturi. Se tu mi parli di una scheda di TV, magari riesco a individuare il danno. È quello il discorso. Ognuno il capo suo dice, ma quello te l'appoggio la verità, perché tu sei bravo in computer e non ti posso dire niente, la verità, quello è il capo tuo. Comunque sia, a fianco all'integrato audio c'è in pratica il condensatore che è 1000 microfono e 16 volts, cambia quello e sei a posto. Ma dove rimane? Ho integrato audio dove c'è lo chassis, visto lo chassis che c'è, dove c'è l'integrato audio agganciato a condensatore che è grande, e 1000 microfono e 16 volts, ricambi quello, si è a posto. Eppure domani con calma me lo apro, voglio capire qual è. Avanti doppio ru, il Marco non risponde. Vabbè dai. Ma io stavo parlando del Typhoon, non del televisore, non avevo il televisore, io stavo parlando del Typhoon che non accendeva e ti ho detto che sono i condensatori, probabilmente è qualche condensatore che è perdito. Appunto, è fatto il paragone che se vediamo il televisore ma riesco a individuarlo, capito? Invece questi del baracchino, la verità no. sono sincero, cosa... Poi, se ma uno vuole far vedere dove è, agire, lo posso anche fare. Non è un problema quello. È quello che adesso ne ha fatto di più, quindi se lo sa dove è. Ma appunto, quello è. Se tu mi dai la scheda di TV, ma non male riesco a individuare, perché sono più grande e tutto. Ma questi qua sicuramente sono piccolini, buh. E capite, vabbè, lo chassi, non so come con i cazzo è. Lo chassi è in pratica, cosa ti posso dire, dalla mia dove c'è inserito il finale, a fianco al cacciato il finale audio, c'è questo condensatore, 1000 volts, quindi figurate tu. Allora aspetta, il problema è che non è un problema di audio, ma è un problema anche di watt, perché stentano a salire anche i watt. Oh Luca. Ehi Acla. Guarda che ho messo l'amplificato, meglio va. Cazzo, beh, ma sei tu. Così, allora sono commosso là. Adesso sei tu Cla, ho voglia. Tu non sai dove lo sciasci, Cla? No, lo schifetti conosco io. Lo schifetti. E adesso già sei tu Cla, un'altra diversa. Ho messo l'MC60 sul coso. Sull'IC7004, vai. Va bene, ero giusto per fare una prova. Già non sono morto. Cosa gli fai Antonio? Cazzo, mi sei dentro il bocco di gosso, cosa c'è? La luna, non ti preoccupare, sto scendendo anche basso di vacca, figurati. Lo sai, mi c'è del fumo nella casa, sì, cioè, vabbè, non l'ho mai saputo tutto perché non sto entrando, quindi a un certo punto non potete neanche sapere, ma comunque il fulmine mi ha pigliato la mantova e me l'ha sciolta. Io lo so. Io lo so, anche se non ci sono, già ho visto che lì sta trampando. Va bene. Allora sei uscito, tutto a rigoglio. Cazzo bocci, ma sta giocando a più le quando mette il nome che giù dalle cara. Riprendete ragazzi, vai, comunque già sono qua, vi sto ascoltando. Vai Luca. Ehi, allora anch'io adesso mi sposto, vado a mangiare a Dea. Niente, riprendi già. Fatti vedere se c'è Marcolino. Ehi. Antone, sei uscito un po' fuori frequenza per un attimo, poi ti sei ripreso. Non so cosa sia. Ho sollevato il latte. Avanti Marco, ci sei? Oh. Chiamami un attimo. Mi siete con la clown, sì. Io sono Antone. Ho capito, sto parlando a Claudio. Claudio mi senti? Sì, ancora. È sparito. I fantasmi entrano e escono. Comunque, signor fantasma, chieda a Walter se riserva per sbaglio un BV2001 da riparare. Fammi sapere qualcosa. Tanto io non me ne faccio una civetta di quel lineare, è buttato qua a un certo punto. Mi sono dovuto assentare, ero mezz'ora al telefono e poi non ho trovato nessuno. Vabbè, anch'io più che altro, facendo la cena a Simona più che altro, quindi una cosa all'altra. Io non mi ricordo nemmeno di cosa stavamo parlando, boh. Sono io. Non so cosa dire. Parliamo di roba nuova, la roba vecchia se va a prendere il culo a un certo punto. Che ora è? È ancora, fra un quarto d'ora inizio a cucinare qualcosa per stanotte. stavo guardando se c'era qualche film passabile in televisione, però vediamo un po'. Roba già vista, più o meno. Poirot, Bedumi, Arma letale, quello più con Mel Gibson, più sfizioso, dai. Poi c'è qualcosa, quell'altro che ormai ha stancato, Steven Seagal, mamma mia, non lo reggo più. Steven Seagal, capito. Comunque sì, vabbè, praticamente adesso c'è il divertimento fatto qua. Quindi, dove c'è scopo? Fare le logiche di porco, se ce la fai. Così almeno ti diverti. Ma si fa poco la prova, il locale qua, alle 8:30, e cominciano a salire e scendere uno con l'altro e a parlare. E qua non arrivano, non arrivano. Sì, se mi sporgo dalla finestra tu arrivi, ma perché hai l'antenna esterna, capito? Per il resto non arriva nulla. KK. Qua ti volevo dire qualcosa di radio, di elettronica, aspetta, cos'era? Bah, non me ne mento. Ah boh, non lo so, dimmi tu quanto ti sei ricordato. E ho preso la favella, dai, e la memoria pure. No, stavo cazzeggiando con lo smartphone, quella notizia e coso. Ecco, c'è le solite manatte. Ho capito. Quindi usano i cosi, i PMR lì. E come sono? Molto ceramidosi. Cosa fanno? Criticano i clienti e roba del genere? No, se criticano fa loro più che altro. Non credo tra i clienti, la verità. Più che altro è fa loro che si criticano. Ma l'ho visto. Sto lamentando forse tu. Perché qui non ci sono più clienti, cosa ha capo messo. Quindi a un certo punto vabbè, adesso vedremo un po'. Ciucciù. Cesso, mi cala la palpebra, mi sto pure addormentando. È una cosa, a quest'ora mi viene. È meglio che mi dia una mossa, allora mi metto ai fornelli, almeno mi sveglio un po'. Porca miseria. Vabbè, oggi non ho riposato nemmeno dopo pranzo. Sono uscito stamattina e poi stavo facendo roba in casa, eccetera. Poi ho sentito Gianni e Luca. Come fai con i cattivi a quest'ora? A parte di te lo metti verso le 3-4 del mattino, il discorso è quello, mi sembra strano a me, perché c'è qualche problema, no, tu, a un certo punto. No, ho notato che sì, tipo le 8, le 9, no, mi viene un po' verso quest'ora un po' di sonnolenza, però dopo che passo una certa ora, dopo che oltrepasso una certa ora, rimango sveglio e vado a letto un po' tardi, capito? E cattive abitudini sono, abitudini molto cattive, anche quello di cenare tardi, certe volte, alle 11, 11 e mezza, tutto un po' a casaccio. Io d'altronde non mangio orario, io mangio quando ho fame, se ho fame presto mangio presto, se ho fame tardi mangio tardi, però poi si ripercuote tutto sicuramente. E ma facciamo una regolazione su queste storie, perché sono cazzo, si è messo male davvero. Quindi di solito cioè, ma con gli americani cazzo sono così. Allora, gli americani cazzo mangiano le uova la mattina, te non sei forte un cazzo le uova la mattina, quindi a un certo punto ti bate un caffè e latte, cazzo per dire, un cappuccino, quello che è. Poi a pranzo, verso la 1:30, 2, ti fai il pranzo, dopodiché alle 5 ti fai la merenda, dopodiché alle 8:30, alle 9, quello che è, fai la cena, tutto lì, il discorso è quello, non è che come fai tu, cioè, infatti la cena alle 10:30, alle 11 è addormentata, non può essere, perché a parte ci rimane il cazzo, come di stomaco, che non ho idea. No, mal di stomaco nulla, magari quello no. Per adesso digerisco anche le pietre. Però se poi sai, mi trattengo troppo con telefilm, in TV, film, serie TV. Capito Antone, è un vizio mio di seguire molta TV molto tardi. Certe volte mi addormento in poltrona magari, sì. Anche alle 2 di notte, alle 3 mi trovo addormentato in poltrona, perché magari il film è palloso e allora l'occhietto cala. Va bene. No, per il resto già mi sento bene, abbastanza bene, vabbè. Nella media, dai. Me lo auguro, la verità, me lo auguro, perché mi sembra un pochettino strana la situazione rituale. La verità, io 8:30, massimo alle 8:30 io mangio, cioè faccio la cena. Dopodiché se io dovessi mangiare a mezzanotte non sono neanche all'ingegnere, sto tutta la notte camminando da una parte all'altra, quindi a un certo punto è così. Tu hai preso l'abitudine purtroppo, quella lì è che cosa ci vuoi fare? Io non ci posso fare niente. Tu dormi in pratica di giorno sei in pratica in giro e di notte cazzo sei. Hai capito? Bello bello. Sono aperta a lavorare. Sai così, prima, fino a un po' di tempo fa uscivo alle 9:30 con Bodale, stavamo in giro, ci prendevamo un caffè, solo che poi tornavamo all'1, 1:30, alle 2, io mi sono rotto le palle di stare così buttato in giro senza scopo così, o nelle sale giochi a girarmi i pollici, lì ci siamo capiti, no? A voglia che ci siamo capiti, no? Compare, non ti capisco per quello. A me non mi piace questo video poker, queste macchinette. Infatti io a volte mi sedevo, almeno lì vedi. A cosa lì di fronte a te prima c'erano delle belle poltroncine, comode, quasi mi addormentavo, ho capito. Mi guardavo internet, mi assopivo. E poi sai, si tornava tardi, mi sconvulsava un po' tutto. E quindi io praticamente. Quando uscivamo anche a quell'ora cenavo al rientro, cenavo all'1:30 di notte, anche più tardi. Poi uscire così non mi piace più, mi sono rotto le palle. Vabbè. Adesso si mangia prima e ce l'ha quella, così ce l'ho. No, stiamo facendo l'irrazione, figurati tu. Cazzo, questo la relazione che fanno, riesci a vedere? Alle 8, figurati, strano. Di solito facciamo le 8:30. E adesso lo fanno alle 8. Che pallino ti serve? Dimmi tu. Antonio, hai mai notato che in questo periodo si sentono fuochi artificiali a destra a manca, come che li facessero i privati? Cioè un po' tutte le ore in Italia ti senti fuochi artificiali, no? Tipo un minutino di fuochi artificiali, roba casalinga, che puoi lanciare anche dal giardino di casa. O sono feste di laurea, cosa ne gioco? O feste private? Perché lo fanno quando fanno i nuovi sposi, diceva quello, hai capito? Lo fanno anche qua su, lo fanno, non so l'altro, lo fanno la pedaliera, i fuochi artificiali, eccetera, eccetera, come fanno a Napoli, fanno tutti i posti ormai. Quindi figurati tu. Questo è così. Cosa ci vuoi fare? Oramai il sistema è quello, manca tutti gli sposi, ti fanno i fuochi artificiali neanche 10 minuti, ma non di più me, hai capito? Perché di più non possiamo farlo, già lo sai. E quindi opera nieda, oppure qua al Marini, oppure li ho visti, dove li avevo visti, adesso non mi ricordo, la verità, un altro ristorante, capito? Ehi, no, ma alla fine sparano tutti, non sapevo che vigeva sempre quella cosa che vale tutto l'anno, non è solo a Capodanno il divieto, ma va bene. Sì, ne sento un po' in tutti i quartieri, e qualcuno aveva detto addirittura che nei quartieri lonfi, dice, come facevano suonare, scoppiare i fuochi, vuol dire che era arrivata la roba, la roba, la droga. No, ma non penso che sia, cioè, ma se così siamo che fai i fuochi artificiali, perché è arrivata la roba, ma non è possibile. Ci sono i portatori cinesi, quindi a un certo punto è molto più sicuro, hai capito? Non penso che sia così di macchina a un certo punto. Vabbè Antonio, visto che la sera è un po' moscia, io mi metto i fornelli, almeno mi sveglio un po'. Ok, devo anche inventarmi qualcosa per la cena. Vabbè, già sono qua ad ascolto, ma non c'è problema per quello. No problem. Andava, a dopo dai, al limite se entri, mi sta bene, non c'è problema, mi fai compagnia. È difficile che entrerò dopo, dai. Sentiamo di giorno, di sera, pomeriggio, quello che è, insomma, dai. Ciao Antonio, buonanotte. Prova a parlare in PMR sul canale, aspetta, te lo dico subito, sul canale 2, se ti sento. Ma non ce l'ho, è tutto smontato, tutte le pile tolte, anzi le dovevo anche ricaricare, tutto smontato ciò. Non c'ho una radio con le pile montate, o cariche credo. Ho capito, vabbè, non c'è problema, devo fare la prova, vabbè, se arriva di qua, più che altro. No, ma volendo arrivo, però sa dove devo affacciarmi? Mi devo affacciare dalla parte opposta a quella della strada. Mi devo affacciare dalla parte interna del palazzo, nel secondo bagno. Lì è esposto verso la zona tua, allora lì, da lì arrivo, però con potenze non più. Vabbè, secondo te, quello che è. Vabbè, facciamo la prova, sul canale 7, subito, dai. Però un altro giorno, come ho detto, è tutto smontato adesso. Anzi, te l'ho detto, devo caricare le batterie di tutto. E se non si passano troppi mesi le batterie arrivano a zero, a volte si sciabideggiano. Poi fanno come le batterie della Tesla, piglia fuoco tutto e... Ah, quello sì. Ma lo so anch'io, non ti preoccupare. Quello io lo so. Proprio così, quello già lo so anch'io. Praticamente abbiamo la casa che è piena di pericoli, perché nei cassetti voi non avete un power bank, un cellulare secondario, poi tutte quelle radioline lì, basta che una si rovini un po', che entri un po' d'aria, piglia fuoco tutto. Poi quando è al chiuso mi dentro cassetti armadi, piglia fuoco in un attimo, per carità. Esagerato, dai, aiuta. Carità, non sei mica. Non è così facile, no? Mettere fuoco verso tutto. Guarda, per esempio il cellulare precedente, lo smartphone precedente. E praticamente la batteria ha cominciato a gonfiarsi, ha crepato piano piano, ha cominciato, ha crepato il vetro di dietro, no? Dietro era di vetro, ed è bombata, è bella gonfietta, sembra un palloncino, come dire, un po' non tondo, no? Già capito, un po' gonfietta, quella, che ne so io, se da un giorno all'altro si crepa e fa la fiammata, e ovviamente dovunque va il fuoco è tutto infiammabile, capito? È tutto infiammabile, legno, coso, che tu ce l'abbia nell'armadio appoggiato sul letto, sul comodino, è tutto legno. Immaginati cosa se poi sei assente tu che non sei a casa e non te ne accorgi, ti trovi tutto incendiato, per carità. Esagerato, ma ce l'ho io un telefono così, la verità, l'ho buttato. Se vuoi la batteria, già regalo, me lo mangiate un cazzo, basta che tu stai a aprirlo, te lo apri e togli una e metti l'altra, qual è il problema? Beh, non so come sia l'attacco, non l'ho mai visto aperto quello lì. Certo è un po' aperto ai lati, però non lo vedi se che connettore c'è, capito? Bisogna vedere se ci sta. No, ma tanto quello ormai è mezzo morto, quel cellulare, quindi finirà nel dimenticatoio. A proposito di batterie mie, proprio l'altro ieri a Palermo, è presente le sigarette elettroniche, quelle ricaricabili, più professionali, no? Che montano quelle batterie, le 18650, no? Quelle grosse, praticamente le è scoppiato in faccia, o meglio, è scoppiata la batteria. E il contraccolpo, no? L'effetto propulsivo le ha rotto un dente e ferito il labbro un pochino. Se tu immagini, va a fumare e ti scoppia in faccia, come avere un petardo in bocca. Capito? È bruttina là, non deve essere bello, eh. Già me l'immagino, infatti. E poi era grossa, la sigaretta elettronica era grande, in forma tipo parallelepipede, no? E montava due batterie, le famose 18650, quelle specie di stiloni, no? Una probabilmente era difettata, trattata male. Ed è proprio scoppiato, cioè come ha sfogato, come ha sfiammato dentro, ha fatto il botto. Vabbè, Antone, dai, io devo fare sta roba ai fornelli, se non riusciamo più, dai. Ci sentiamo a un orario più consono. Ciao, buonanotte. Ok, ciao, ci sentiamo, buonanotte anche a te, non c'è problema, stammi bene.